Fauno per il vascello, questa prima nazionale, poi che succederà dopo il 28? Poi niente, saremo il 28 a Vascello, poi l'11 maggio al Teatro Vascello, poi il 26 maggio al Teatro Vascello, 3 fine settimana. E nulla, per adesso siamo al Vascello, perché poi lo spettacolo è pronto da relativamente poco, diciamo, è pronto da poco. E quindi non ci siamo attrezzati ancora per partecipare alle stagioni, ma in un senso di rispetto verso le stagioni, verso i teatri. Cioè, propongo uno spettacolo nel momento in cui il spettacolo è quasi, non dico è automatico, nessuno di spiegarsi, ma è quasi automatico. Il Fauno è quasi automatico adesso, però non lo era quando le stagioni sono state messe a punto. Parliamo di febbraio-marzo, fine febbraio, quindi marzo, quel periodo in cui stanno le stagioni. Per cui faremo sicuramente qualche programma a Napoli, insomma, e spero che i teatri non abbiano paura di prendere atto del grande affronto che rappresentiamo. Retorica. In chiusura, Nicola, ci lasci i riferimenti web per tutte le informazioni? Sì, come no, www.facebook.com/NicolaBicidomini attaccato è la mia pagina. Fan, gestisco anche io fan, questa parola. Pure io sto sfacciando barbarie generale, ma io non sono immune da sta cosa. Purtroppo siamo spacciati. Poi su Instagram baracca slash sotto attivo basso Vicidomini, su Twitter che non uso mai, però volete mandarci anche lì ben venga, è grande Vicidomini, questo è, e per il resto stiamo attrezzando, insomma, speriamo, speriamo. Allora, ricordiamo il primo appuntamento con lo spettacolo Fauno al Teatro Vascello a Roma, domenica 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Nicola A Bicidomini. te una cosa importantissima, anzi due cose importantissime, musiche originali, sono originali perché inedite, assolutamente inedite, dal 74, da quando in uno scaffale impolverato, casa Umiliani, sono del maestro Umiliani, che mi ha dato a distanza nel realizzare quest'opera, a distanza perché è morto fondamentalmente nel 2001 e nonostante sia morto, continua a comporre per il teatro. Quindi tu pensa che abbiamo sconfitto la morte con questo spettacolo, quindi pensa il valore che possa avere, o la mancanza assoluta di valore, il valore non c'è. Sì. E le maschere sono di Demna, i grandi artisti milanesi. Un abbraccio, ciao.